Il disco matrice è stato appena tagliato, ma la superficie di lacca è troppo delicata per funzionare. È stata prodotta unicamente per fare da stampo. Verrà pressata per produrre versioni più resistenti dei solchi registrati e ciò consentirà ai produttori di ottenere molte copie da una sola matrice. I residui di argento che non si sono attaccati vengono lavati via. In pochi secondi un lato della lacca è diventato un meraviglioso disco d'argento con solchi intatti. Ora il disco viene rimosso dal serbatoio e lo strato di metallo viene separato dal disco originale laccato. Questo strato di metallo è una matrice. Mi si dirà, ma questo è archeologia, stiamo ancora a soffermarci sul romantico, la romantica catena di produzione di un vecchio disco in vinile, che oggi è un grande strumento di recupero nostalgico e di apprezzamento per la musica fruita, usufruita in una certa maniera, ma oggi in realtà la musica si ascolta attraverso il modello di compressione che è l'MP3, che è qualcosa che permette di tenere tanta musica raggruppata, ammassata in un piccolo supporto. Addosso possiamo portarci ore e ore di musica e non ci rendiamo più conto. In realtà questa musica, per essere tanta e per essere contenuta in un oggetto piccolo, di qualcosa deve essere deprivata. Per una legge basilare questa musica è impoverita di alcune frequenze, manca qualcosa. Anche questa è una musica quasi ottima, ma non ci rendiamo più conto, perché l'ottima musica è qualcosa che appartiene al passato o appartiene a delle fruizioni che necessariamente richiedono tempo, richiedono ambientazione, richiedono impegno economico, richiedono tranquillità. Oggi non abbiamo più la tranquillità per poterci dedicare all'ottimale. Dobbiamo accontentarci del quasi ottimo, ma è proprio un accontentarci questo quasi ottimo, o è la cifra essenziale della nostra contemporaneità. Noi oggi siamo quasi ottimi. La quasi ottimalità è il massimo punto a cui possiamo tendere.